E benvenuti a questa nuova puntata di 8 Hertz, che è una puntata di quelle speciali, di quelle alchemiche, di quelle psicotrope per intenderci. E partiamo subito facendovi ascoltare un qualcosa, visto che ne ha fatte tantissime di cose, di John Duncan, che è uno statunitense che da Los Angeles poi si è mosso in tanti posti fino ad arrivare a Bologna, dove attualmente vive. E più che un musicista, si può dire che è un artista un po' globale, visto che all'inizio collaborava con l'azionismo viennese, o ha preso molta ispirazione da loro grazie alle performance. Infatti ne ha fatte tante veramente pazze, e poi ha continuato con la videoarte, con il teatro, per cui diciamo che con la body art, per cui ha sperimentato veramente di tutto e non solo in musica. Ma qui a 8 Hertz vogliamo darvi brividi o scuotervi i neuroni del cervello, per cui si parla proprio di musica, o rumore o suono, visto che tante cose che ha fatto riguardano l'uso sia campionato che mandato di forme di onda radio, rimaneggiate, rieffettate, distorte, o insomma con i trucchi che del mestiere, o trucchi che solo lui conosce. Per cui insomma ascoltiamoci intanto questo pezzo, poi magari ne parleremo anche più in là in futuro, ne faremo una puntata a parte, perché ha fatto e continua a fare delle cose veramente interessanti. Comunque questo pezzo si chiama Angry Last Words e Yoika, che è tratto da Riot, un disco del 1984. All'inizio della sua carriera, già dagli anni 60, ha fatto un sacco di album in cassetta, come fossero proprio delle vere e proprie sperimentazioni che si deteriorano nel tempo. Buon ascolto. You piss on the cock. You burn the cunt with cigarettes. You have a good time. Thank you. Thank you. 忘れなどできない。この時代への準備は良いか？ Lì Ranaldo, forse già lo sapete, è uno dei due chitarristi degli storicissimi Sonic Youth e ha fatto anche una carriera solista e continua a farla. Ad oggi è un po' più pop e folk, più cantatoriale, ma in passato ha fatto tanta roba anche con tanti musicisti diversi, tanta roba che era un po' più appunto alchemica, un pochino più sperimentale e anzi andava anche verso l'industrial, verso il noise. Per cui vi sto facendo ascoltare un esempio di queste cose che faceva lui, che assolutamente non sono simili a quelle dei Sonic Youth e hanno anche un valore ben diverso, per quanto i Sonic Youth insomma siano veramente degni di nota e appunto sono già passati alla storia. Il disco, il pezzo si chiama Naked and Alone at the Nifty Factory No. 1, è il secondo pezzo di un tris di pezzi. I primi due sono stati registrati a New York dal vivo. Il disco è del 1993, si chiama Scriptures of the Golden Eternity. Secondo me è uno dei suoi lavori più radicali, ma lo state già ascoltando, per cui anche questo è un pezzo piuttosto lungo, per cui godetevelo ben bene e rilassatevi se ci riuscite. È basato molto sui delay stretti, e quindi diventano quasi delle ripetizioni campionate. A dopo. pianeta Earth, e dalla Terra stiamo andando verso lo spazio con un terzetto che ha fatto uscire un disco molto bello, e il terzetto è una bomba. Infatti loro sono Richard Pignas, ovvero uno dei membri degli Heldon, che era un gruppo degli anni 70, appunto space rock abbastanza sperimentale. Tatsuya Yoshida, il batterista dei Ruins, che era un gruppo che spaccava il culo, insomma, fino agli anni 90 credo hanno durato, e Masami Akita, che è Merzbow, per cui ne abbiamo già parlato la scorsa volta, che è un po' il re del noise giapponese, è un po' la bandiera giapponese del noise estremo. Questo disco è del 2016 e si chiama Process and Reality, per cui ascoltiamocelo. E loro tre sono veramente delle bestie, dopo. We'll be right back. proprio degli Eldon, andiamo a ascoltare un pezzo. Loro sono un gruppo francese, appunto attivo negli anni 70 e oltre, appunto un po' space, un po' prog, ma senza stuccare, perfetti nel miscelare alchimicamente i suoni. Questo pezzo è tratto da un disco del 1976 che si chiama Un Rêve sans conséquence spéciale. È la terza traccia, che si chiama, ve lo dico in italiano, MVC2, o secondo, per cui ascoltate su 8 Hz e ci avviamo verso una parte un pochino lievemente più morbida. E vi ho scovato il pezzo di un autore che non fa assolutamente queste cose che stiamo ascoltando, ma che invece alchemicamente funziona. Lui è Jimmy Tenor, che è un compositore, un sassofonista finlandese. Tenor viene proprio dal sassofono tenore, che è il suo strumento preferito. Ha fatto tante cose, fondamentalmente cocktail music, jazz, anche pop. Per un breve periodo ha fatto anche uscire dei dischi per la Warp, l'etichetta quella appunto che abbiamo per la quale abbiamo passato tante volte i dischi, i brani di Aphex Twin e di tanti altri. E tra l'altro sono molto belle quelle cose della Warp, magari un giorno vi faccio ascoltare un paio di pezzi. Comunque, Jimmy Tenor ha fatto un disco tempo fa, nel 2013, che si chiama Exocosmos, insieme all'Impostor Orchestra, che è appunto un'orchestra di sgabbiati, penso sempre finlandese a giudicare dal nome. E questa è una traccia del disco che si chiama Kuiper Belt. queste puntate di 8 Hz non avevamo ancora messo un personaggio totale come Sanra, che è un jazzista super sperimentatore che ha iniziato negli anni 50, sono le registrazioni di, appunto, del 1954 o 52, le primissime. Un personaggio veramente stranissimo. Lui si definiva un alieno che veniva da Saturno, un angelo che è venuto da Saturno. E dentro la sua musica ci sono concetti, appunto, di tutti i tipi, di esoterismo vario. Poi anche Sanra come nome riprende, appunto, dalla mitologia. Mi sto perdendo in Sanra, nella mitologia egiziana. E quindi, insomma, ha fatto così tante cose che non se ne può parlare mettendo un pezzo e basta, come quello che vi sto mettendo. E purtroppo vi devo dire che siamo anche alla fine, perché questa puntata mi piace molto. Comunque, intanto ascoltatevi questo brano, poi se volete approfondire, insomma, avete tutti i mezzi per farlo. E allora, Sanra è la His Solar Meat Orchestra. Il disco si chiama The Solar Meat Approach Volume 1, cioè il volume 1 e il volume 2, roba del 72. Il secondo pezzo si chiama Realm of Lightning, è un pezzo bellissimo, fondamentalmente di percussioni e di caos, veramente che diventa cosmico. E quindi è anche uno dei fautori, un personaggio importantissimo per quanto riguarda il free jazz, e tante cose del jazz core non sarebbero nate se non ci fossero stati esempi come lui. Io vi lascio, buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo per una nuova puntata di 8 Hz, sperando che voi ascoltatori ne proviate beneficio o maleficio, ma è uguale, l'importante è ascoltare questa roba e farvi un vostro viaggio cosmico. Ciao. Thank you.